baña. Sto sbagliando tutto quanto, per il fatto che io almeno ci sto provando. Come sto andando, ti para lo sbando. Mi pare che le pare, più volte non le comando. Non ho le rime incisivo, quelle molari. Scusate, volevo dire morali. La mia vita te la chiederanno in quinta gli orali. Per questo studiami e sia, hai bisogno di un ripasso, io di compagnia. Sono fuori dai soliti introgli. Fine. Sono fuori da tutto, fuori di brutto e come imbrogli. Già, perché io abuso di te per sporcare foglie. Tu abusi di me perché debole in questi giorni neri. C'eri, per questo dovrei darti un bel 5 alto. Eravamo in 5 a farlo. Nome Royal era la Corsera in Riviera. Con gli scazzi sempre attivi, cattivi, che bruciavano ogni bandiera. Siamo noi, noi, quelli coi problemi pesanti. Siamo noi, quelli drastici. E siamo noi che scherziamo sui nostri disastri. Siamo noi, troppo simpatici. Siamo noi, noi, quelli coi problemi pesanti. Siamo noi, quelli drastici. E siamo noi che scherziamo sui nostri disastri. Siamo noi, ehi, troppo lunatici. Ho sentito bussare, mi alzo e apro. Oh, guarda chi c'è, l'odio. Proprio nel momento in cui ne avevo davvero bisogno. Non mi vergogno, non dico se segui l'amore finisci di fisso fallito. Ma pensa, l'amore fa passare il tempo e viceversa. Ma te ridi, ridi. E poi sei tu che non ti fidi, per questo grida e scleri. Così ti isoli in buchi neri e non insegui desideri più di quanto facevi ieri. Sei limitata e a me hai rifilato una lama. Una lamata, un'altra amata tradita, un'altra amata tradita abbandonata. Ci ho fottuto la calma, dovrei fare come Earl, una lista per salvare il mio karma. Ci sei te, nella lista nera e basta. Se ti volti ci sono, pensavi fossi sparito? Non era ancora l'ora, finora ho colto l'invito. È una grossa sfida, una grossa mossa magari. Non muovo un cazzo, una minima scossa mi manda sul lastrico. Quest'essere drastico a portarmi a farmi del male. Lo rimproverano sempre, da sempre prova a cambiare. Ma non posso cambiare se ogni volta che ho qualcosa capace di farmi star bene, qualcosa me la farà scappare. Siamo noi, noi, quelli coi problemi pesanti. Siamo noi, quelli drastici. E siamo noi che scherziamo sui nostri disastri. E siamo noi, troppo simpatici. Siamo noi, noi, quelli coi problemi pesanti. E siamo noi, quelli drastici. E siamo noi che scherziamo sui nostri disastri. E siamo noi, ehi, troppo lunatici.